Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico finanziaria. Allora, la Banca Centrale Europea lascia i tassi invariati e non solo la Banca Centrale Europea, ma altri segnali stanno un po' raffreddando la temperatura, per fortuna, dei mercati europei, tant'è che le borse sono di nuovo positive, più 3% Milano, più 2,70 Parigi, più 2,20 Francoforte, più 2,40 Londra, l'America più 0,40, ma si è anche un po' raffreddata la temperatura del nostro debito, chiamiamola così, quella misurata con gli spread, quindi con la differenza tra quanto rendono le nostre obbligazioni e quanto rendono quelle tedesche. È scesa sotto i 360 punti e di questo parleremo subito, anche perché ci sono dichiarazioni non solo della Banca Centrale Europea, ma ci sono anche dichiarazioni in generale di alcuni economisti. Penso a Daniel Gross, dice forse abbiamo evitato il baratro. Insomma, tutto questo dovrebbe mantenere, speriamo, per un certo periodo una maggior calma sui mercati. Trichet ha detto: certo, l'incertezza resta alta, sono aumentati i rischi, la crescita dell'area europea è molto moderata, però gli stati possono potenziare il fondo da soli, il fondo di salvataggio, facciano misure aggiuntive se necessario sui conti. E quanto all'Italia, ha detto, insomma, insistiamo sulle riforme strutturali, e ha detto la lettera che anzi l'adesione dell'Italia alle richieste arrivate dalla Banca Centrale Europea tramite una lettera sono un work in progress, sono quindi un lavoro in corso. Questo per quello che riguarda i temi di carattere europeo e internazionale. Poi, come sempre la borsa, ma vi dicevo bene oggi, di nuovo tutti i titoli, in particolar modo Tenaris più 7,20, Prismian più 6,40, Exor più 5,80, Buzzi Unicem più 5,20, Intesa San Paolo più 5,20, Mediaset più 5,1, Finmeccanica più 5, Mediolanum più 4,70, mi fermo con chi guadagna più del 4%, Atlantia più 4,6, Pirelli più 4,4, Saipem pure, Ansaldo più 4,20, ST Microelectronics più 4,14, perde poco, solo Banca Popolare Emilia Romagna meno 0,36 e Parmat meno 0,52%. Poi ci occuperemo anche dei marchi mondiali, avremo anche un ricordo di Steve Jobs, perché quando parliamo di marchi mondiali, Apple ha costruito uno dei marchi più importanti al mondo, non solo nell'information technology ma in assoluto. C'è una classifica realizzata come ogni anno che prende i 100 marchi, 100 brands le chiamo, più importanti al mondo, più quelli che hanno maggior valore, che se uno dovesse comprarsi quel marchio dovrebbe pagarlo di più. Ebbene, vi dico subito che resta il numero uno la Coca-Cola, che però salgono tantissimo i marchi legati proprio all'information technology, Google ma non solo, e che gli italiani sono pochissimi su 100. Troviamo Armani, che è italiano, troviamo Gucci, che è italiano solo di nome, e troviamo al 99° posto la Ferrari, altro non c'è, ma ne parliamo più avanti, perché insomma la capacità di imporre marchi è anche la capacità di creare consumo nelle economie emergenti, Cina, India e Brasile, che come tutte le economie che nascono, come tutti i newcomers, i nuovi arrivati, si orientano molto sui marchi conosciuti, su quelli che creano tendenza. E poi alle 18:10, a proposito di marchi importanti, continua il nostro viaggio con le imprese italiane, con gli imprenditori e i manager che accettano la sfida, battono anche la crisi, continuano ad aumentare i fatturati, a investire, e forse qualche ricetta ai loro colleghi imprenditori e al paese possono darla. Oggi sarà la volta di Andrea Guerra, che è il giovanissimo numero uno di Luxottica, che significa migliaia di negozi in 130 paesi del mondo e marchi prestigiosissimi sugli occhiali, leader nella fascia alta degli occhialeria. Guerra è arrivato a dirigere Luxottica, cioè quasi 5.000 dipendenti, a 39 anni. E in questo paese già questo basterebbe a fare notizia. 349-238-6666 per gli sms e le altre notizie in breve. Il petrolio si riscalda, $80,36 al barile, l'oro a $1,648 al barile. Ancora, per quello che riguarda Steve Jobs, abbiate un po' di pazienza, perché ne parleremo. Tra l'altro parleremo anche, vi daremo anche atto adesso di quello che è successo al Consiglio dei Ministri, pace, tregua armata, non lo so, insomma, tra Berlusconi e Tremonti. Prima di Berlusconi e di Bossi e delle varie reazioni al Consiglio dei Ministri, vi aggiorno sul taglio di Moody's ai rating, perché ieri in serata ha tagliato, ma lo dico subito, è in automatico, come è avvenuto con Standard & Poor's. Quando tu abbassi il voto dello Stato, per conseguenza automatica, tutte le società partecipate dallo Stato, quindi Eni, Enel, le Finmeccanica in questo caso, Poste Italiane, Eterna, hanno un abbassamento quasi automatico del voto, perché se l'azionista principale è meno affidabile, lo è anche la società partecipata, mettiamola così. Così come si spiega nello stesso modo l'abbassamento del voto anche per alcune banche italiane, Unicredit e Intesa San Paolo, perché hanno moltissime obbligazioni italiane, quindi tu hai molti investimenti nel debito di uno Stato che ha appena ricevuto un abbassamento di voto, e quindi anche il tuo debito, anche il tuo investimento si abbassa come voto, e la conseguenza è un abbassamento di voto anche per la banca che l'ha comprato questo debito. Una mazzata l'ha definito l'abbassamento del voto il segretario del PD Pierluigi Bersani. 3 gradini in meno è una mazzata. Certamente l'Italia sta meglio nei suoi fondamentali di quanto non dica questo giudizio, ma con tutta evidenza c'è uno scarto enorme fra la realtà dei nostri fondamentali e la fiducia dei mercati e di tutti gli osservatori, e quindi non siamo davanti a rischi ulteriori, rischi di scivolamento ulteriore, se non introduciamo un elemento di novità, di cambiamento che dia, diciamo, qualche ragionevole fondamento a una nuova fiducia che deve venire dai mercati. Allora, 2 risposte agli sms già arrivati al 349-238-6666. 39 anni non è giovanissimo, lo so, ma in questo paese sì. Ancora, ho detto l'oro all'oncia, l'oro al barile, sì, vabbè, l'oro è chiaramente all'oncia, 31,3 grammi è un'oncia, e quello è il prezzo dell'oro. Andiamo avanti invece sull'economia italiana. Il direttore generale della Confindustria Giampaolo Galli, in audizione alla Camera, ha detto: l'Italia non ha futuro in termini di crescita e di benessere se non si avvia un cambiamento radicale nella politica economica per contenere la spesa e ridurre stabilmente quello che è il perimetro dello Stato e quindi quello che è il capitale statale. E poi la Confindustria aggiorna il dato su quanto peserà il fisco e quanto pesa il fisco, ma alla luce soprattutto della nuova manovra finanziaria, si passerà dal 46,6% del 2010 al 48% del 2013, un record assoluto, lo ha definito sempre il direttore generale della Confindustria Giampaolo Galli alla Camera, citando proprio il decreto. Se poi vi dovesse essere un taglio alle agevolazioni fiscali, la pressione fiscale salirà al 49% contro il 46% del 2010. E poi Rete Imprese per l'Italia, e quindi Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, che calcola come lo sblocco delle addizionali IRPEF a livello regionale porterà da parte degli enti locali praticamente a un aggravio, a un aumento del prelievo fiscale pari a 4 miliardi e 400 milioni. Questo per solo per quello che riguarda l'addizionale IRPEF comunale. E tra l'altro, visto che parliamo di fisco, domani, venerdì 7 ottobre, esce ed è in edicola la guida del Sole 24 Ore ai controlli fiscali in azienda, quindi tutte le informazioni per difendersi e comunque gestire al meglio le verifiche del fisco. Avete ragione, lo ha spiegato oggi il collega del Sole 24 Ore, Fabio Pavesi. Goldman Sachs teneva e consigliava buy, quindi di comprare la banca Dexia, quella che è sull'orlo del fallimento, fino a qualche giorno fa. E questo è il motivo per cui noi da 3 anni non raccontiamo quelli che si chiamano i giudizi degli analisti, compra, tieni o vendi, perché il conflitto di interessi delle banche d'affari che danno questi giudizi è enorme. Goldman Sachs magari dice ai suoi clienti compra e nel frattempo con la mano sinistra vende, è già successo decine di volte. Quindi i giudizi degli analisti delle banche d'affari, finché non ci chiariscono quanto hanno di quelle azioni prima di dare un giudizio, non li vogliamo sentire. Mi sembra che sia almeno un paio d'anni che non li raccontiamo neanche più. La Confcommercio, restiamo in Italia, dal 2008 si è ridotto il potere d'acquisto delle famiglie italiane di circa 10.000 euro in meno rispetto a quanto appunto le famiglie non avessero nel 2008. Il presidente Sangalli. L'analisi ci consegna dei dati preoccupanti. Nel mese di agosto i consumi sono diminuiti dell'1,5% rispetto al mese di luglio, azzerando così tutti i timidi segnali di ripresa dei consumi registrati nei mesi precedenti. Gli effetti negativi sul PIL sono stati diversi da regione a regione. Ha colpito più duramente il nord, perché sono diminuite le esportazioni, ha colpito meno duramente il centro per una maggiore presenza del terziario avanzato, del terziario di mercato. Il mezzogiorno continua ad essere penalizzato. Sì, lo so, vedo molti messaggi al 349-238-6666, ma come aumentano le tasse? Insomma, è chiaro, il dato si evince in maniera molto netta. Se tu prendi quello che è la pressione fiscale rispetto al PIL prodotto, era nel 2010 del 46,6%, nel 2013 arriverà al 48%, c'è l'IVA in più e altre misure. E poi bisogna sommare, attenzione, anche le addizionali comunali e regionali. Questo lo dico senza polemica, ha aumentato o non ha aumentato le tasse il governo, la pressione fiscale è aumentata, fine, inutile tanto sempre ogni volta di dividersi in Guelfi e Ghibellini anche sui numeri. Allora, il Consiglio dei Ministri, pace fatta almeno per adesso tra Berlusconi e Tremonti. Berlusconi lo ha detto uscendo dal Consiglio dei Ministri, chiaramente non riguarda questo programma la battuta del Presidente del Consiglio sul partito che vorrebbe fondare Viva la Gnocca, qualcosa del genere. Se ne occupa i nostri GR, se ne occuperà magari la Zanzara, noi ci occupiamo di economia. Dicevo, il Presidente del Consiglio Berlusconi ha detto con Tremonti via assoluta concordia. Il lavoro non è facile, ma la manovra non è facile, ma con il Ministro c'è condivisione su tutto. Le manovre con i fichi secchi non si possono fare. Ascoltiamo al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Stiamo lavorando, non è facile, siamo in continuo contatto. Tutte le cose, lo dico io, che ho visto scritte sui giornali in questi giorni, su ira mia, su uscite sue, sono tutte assolutamente storie. Se c'è un periodo in cui noi stiamo lavorando insieme e in assoluta concordia, è questo. Perché abbiamo una manovra importante da mettere fuori e non facile, perché le nozze con i fichi secchi non si possono fare. Quindi se fosse facile anche altri governi in Europa avrebbero già assunto prendersi attenzione. E invece come mai non c'è un governo che abbia saputo incidere sullo sviluppo e tutti i paesi sono legati a una crescita che è assolutamente contenuta? E poi la vicenda del nuovo governatore della Banca d'Italia. Fra meno di un mese Mario Draghi si insedierà ufficialmente a Francoforte. Anche qui non torno sulle polemiche, è chiaro che è più di 3 mesi che il governo sa che deve trovare un sostituto per Mario Draghi, è arrivato sicuramente in ritardo o lungo, e comunque ha detto il Presidente del Consiglio che la decisione arriverà entro il primo di novembre. Mi permetto di far notare che deve arrivare entro il primo di novembre, a meno che non vogliamo fare un interregno in questo periodo, proprio in questo periodo sulla Banca d'Italia, entro il primo novembre, cioè entro il giorno in cui Draghi andrà a Francoforte, ed ha rimarcato il fatto che la decisione spetti al Presidente del Consiglio. È una cosa che spetta al Presidente del Consiglio, e quindi il Presidente del Consiglio fare il nome al Consiglio Superiore della Banca d'Italia, che poi deve illustrare questa sua decisione al Consiglio dei Ministri, che deve soltanto sentire, e poi deve comunicare il nome al Presidente della Repubblica. E dato che queste sono le prerogative del Presidente del Consiglio, io le metterò in pratica. E poi Bossi su Grilli di nuovo è tornato. Alcuni fanno notare che tutto questo interesse di Bossi verso Grilli sta bruciando il candidato di Tremonti, che l'effetto ogni tanto si può vedere. Comunque, ha detto il ministro Umberto Bossi, Grilli è il più bravo d'Europa nel suo campo, sarebbe un errore perderlo, se non gli si fa spazio va via dall'Italia. Io appunto Grilli, quello che ho conosciuto e che ho visto, che è molto bravo, deve essere anche molto capace. Grilli è molto capace, penso che sia il migliore in circolazione in Europa. Se fossi noi avrei deciso molto prima. E poi il decreto sviluppo slitta al 20 ottobre il disegno di legge che dovrebbe contenere le misure, tra cui la Tremonti infrastruttura, le misure promesse per far sì che accanto alla finanziaria che aumenta la pressione fiscale e dovrebbe ridurre la spesa pubblica, vi sia anche una parte che riguardi lo sviluppo e quindi le iniziative per la crescita, slitta appunto al 20 ottobre. Professor Mario De Aglio, che insegna economia internazionale all'Università di Torino, buonasera. Buonasera. Adesso con lei commentiamo anche le dichiarazioni di Trichet, l'ultimo consiglio direttivo di Trichet, perché poi lascia il posto appunto a Mario Draghi, quindi alla presidenza della Banca Centrale Europea. Se mi vuole dare però un commento, visto che lei scrive regolarmente sulla Stampa di Torino proprio di economia, su questo diciamo Pax Romana, non lo so, insomma, tra Berlusconi e Tremonti per quello che riguarda la manovra, e anche sulla nomina del governatore. Io credo che la Pax sia a un certo punto necessaria, perché sono nozze con i fichi secchi, insomma. Non ci sono soldi per mettere sul piatto, il governo non vuole naturalmente fare una seconda manovra, prendere altri soldi per poi ributtarli nella crescita, quindi bisogna trovare una via d'uscita, insomma, in qualche modo per mettersi d'accordo, punto e basta. Non è una grossa notizia, non è una Pax Romana, che era una Pax fondata su ampie prospettive di crescita, è appunto una Pax coi fichi secchi. E invece per quello che riguarda la scelta del governatore della Banca d'Italia? Ma io credo che sia leggermente più complicato di come la mette il Presidente del Consiglio. Intanto i suoi poteri di scelta non sono illimitati, ma credo che dovrà scegliere bene o male, formalmente o informalmente, tra una rosa di candidati. E poi, perché la nomina sia valida, sono necessari anche altri assensi, non soltanto il suo. È vero che lui ha il potere di proposta, e quando un Presidente del Consiglio avanza una proposta ha un certo peso, ma se bastasse la sua proposta a fare tutto l'avrebbe già fatto, invece non lo può fare. Ma secondo lei, al di là, diciamo, dei meccanismi di scelta, l'Italia rischia qualcosa come immagine, oppure tutto sommato alla fine, se arriviamo in tempo utile entro il 30 ottobre, va bene così? Ma senta, come rischi di immagine ne abbiamo già corsi così tanti che c'è stato ormai, abbiamo fatto, molto. Più è sì, un eventuale ritardo nella nomina, diciamo così, porta poi, intanto se il ritardo è breve o se è lungo, se fosse un ritardo di 3 mesi sicuramente il danno c'è, se fosse un ritardo di 3 giorni nessuno ci fa caso. E più che il ritardo come tale, ammesso che sia limitato, è poi la scelta di un candidato adeguato. A me sembra che i due candidati attuali siano tutti e due adeguati. Diciamo che uno dei due ha il vantaggio di venire dall'interno, e questo può essere più che vantaggio, diciamo la caratteristica di venire dall'interno, questo può essere normalmente un vantaggio per quanto riguarda la coesione. Se invece si pensa a politiche radicalmente diverse della banca, potrebbe non essere un vantaggio. Sì, fermo restando che poi, secondo me, il fatto che Draghi non faccia mistero di preferire Saccomanni, secondo me permetterebbe forse dei rapporti anche non formalmente, ma sotto traccia un po' migliori con la banca di, con la Banca Centrale Europea, visto che fare uno sgarbo a Draghi in questo momento, secondo me, non sarebbe una grandissima scelta strategica. Comunque, sarebbe, speriamo che anche questo ritardo porti a un parto, comunque, professore, se mi passa sì. La battuta. Penso che ci saranno moltissime pressioni in questo senso. In quanto ai rapporti tra il nuovo governatore e Draghi, credo che la differenza sia questo, che se il nuovo governatore chiama al telefono, quanto tempo ci mette a farsi rispondere? Perché se è una persona, diciamo, con cui ci sono rapporti di collaborazione eccetera, è probabile che nella gestione delle cose la risposta sia più rapida, cioè i canali sono più diretti. E al di là di quello non credo che no sicuramente dal punto di vista no. Anche perché vorrebbe dire descrivere un Mario Draghi come non è. No, dico solo che proprio in queste situazioni di difficoltà e di crisi abbiamo visto quanto i rapporti interpersonali, perché poi parliamoci chiaro, no, Yalta non l'hanno fatta via fax, si sono incontrati e visti. Allora, anche in questo caso, quando la situazione butta male, è molto importante il rapporto umano che hai. Ciampi lo raccontava, qualche l'ex Presidente della Repubblica, allora Ministro del Tesoro, quanto fu importante il suo rapporto con Kohl ai tempi in cui non si voleva far entrare la lira nell'euro. La capacità anche di... Va bene, andiamo invece sulla Banca Centrale Europea. Jean-Claude Trichet, ultimo suo intervento, non lo ascolteremo più, diciamo, nella sua veste di presidente, vediamo adesso, di presidente della Banca Centrale Europea. I tassi invariati all'1,5%, alta incertezza, e la crescita è molto molto moderata nell'area euro. Based on its regular economic and monetary analysis, sulla base delle analisi economiche e monetarie, il Consiglio direttivo ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. L'inflazione è rimasta elevata e ci aspettiamo che resti sopra il 2% nei prossimi mesi prima di scendere. Lo scenario per l'attività economica è caratterizzato da un clima di incertezza che resta particolarmente elevato e da ancora più intensi rischi al ribasso. Per ciò che riguarda la crescita dell'area euro, dopo il rallentamento del secondo trimestre, ci aspettiamo che il ritmo sia molto moderato nella seconda metà di quest'anno. In particolare, ci sono diversi elementi che concorrono al rallentamento della crescita, tra cui il calo della domanda globale, la flessione della fiducia di consumatori e imprese e gli effetti negativi sulle condizioni di finanziamento derivanti dalle tensioni in corso sui debiti sovrani di alcuni paesi. Allo stesso tempo, ci aspettiamo che l'area euro continui a beneficiare della crescita positiva nei paesi emergenti, dai bassi tassi di interesse e dalle misure prese per sostenere il funzionamento del settore finanziario. The functioning of the financial sector. Allora, professor De Aglio, un commento sui tassi, poi arriviamo dopo il meteo e la pubblicità, le faccio ascoltare anche il Presidente della Commissione Europea, José Barroso, che dice che bisognerà ricapitalizzare alcune banche europee. E la Banca Centrale dice: noi abbiamo fatto la nostra parte, però non ci possiamo sostituire ai governi, se posso sintetizzare. Senta, posso dirle che Trichet mi fa un po' di malinconia. Perché? Perché è stato un funzionario onesto, molto bravo nel fare il suo mestiere, senza nessuna fantasia, nessun guizzo di iniziativa personale. Ha detto la stessa cosa dal primo giorno all'ultimo: i governi devono fare le riforme, come se fosse un disco, e ci lascia dipingendo un quadro sconsolato. L'inflazione sta ripartendo, i governi non riescono a tenere sulla congiuntura, ci aspettano dei mesi brutti, la fiducia dei consumatori e delle imprese sta calando, non so che cosa di peggio poteva ancora dirci. Ha sempre guardato a queste cose in maniera distaccata, è stato molto più il notaio che non il propulsore. Io spero che Mario Draghi sia diverso. Cioè lei dice, scusa Trisce, ma tu dov'eri in questi anni? Appunto, ma piuttosto doveva dimettersi, perché credo che in tutte le sue conferenze in cui sì, devo dire ha sempre detto i governi. Devo dire che se io prendessi uno dei file audio che abbiamo di Triscelli, abbiamo tutti, potrei forse sostituirlo con quello di oggi, prendere uno di 2 anni fa. L'inflazione l'abbiamo anche fatto una volta. Per scherzare, quando Trichet, insomma, l'inflazione è un problema, vi ricordate prima del crack Lehman Brothers a luglio, alzò i tassi, l'inflazione è un problema, sì, è un po' la stessa cosa, la crescita, l'inflazione abbiamo un problema. Potevo usare un po' più di forza con i governi. Devo spezzare una lancia a favore di Trichet, però, professor De Aglio, che negli ultimi tempi la Banca Centrale Europea di fatto veramente ha avuto una marcia in più nel salvare Francia, nel salvare Italia e Spagna, quanto a debito, cioè, è andata anche contro la sua ortodossia, o no? Anche contro Trichet in buona parte, cioè, anche lui contro... ha avuto poi il buon senso di accettare, insomma, delle condizioni, quando c'è stata una pressione politica molto grande lui ha accettato. Devo dire che comunque è sempre stato coerente, per quello che è un po' di malinconia vedere la fine della sua era. È stata una persona sicuramente preparata, su una posizione molto, molto rigida ma tenibile, e adesso speriamo che, andandosene comunque questa stella fissa, ci sia un'altra stella un po' più mobile, ma che abbia le stesse caratteristiche di stare al centro delle manovre, che diciamo meno con l'ossessione meno tedesca dell'inflazione, ecco, mettiamola anche così, direi proprio di sì. Perché quella non si può sentire ogni volta l'inflazione, qua il problema è che non cresciamo e tu ti preoccupi dell'inflazione. Meteo, pubblicità. E poi invece le banche europee, perché oggi la borsa chiude bene, più che bene, più 3,5%, più 3,20% Parigi, più 3% Francoforte, però tutti ormai danno per scontato che bisognerà mettere altre decine di miliardi di euro dentro alcune banche europee. Ci sentiamo dopo il meteo. 349-238-6666 per gli sms. Since 2008 in Europe, dal 2008 in Europa almeno 500 miliardi di euro sono serviti per sostenere le banche. In questo modo sono stati anche sostenuti i risparmi depositati dai cittadini in quelle banche e gli investitori. Sono tutti soldi usciti dalle tasche dei contribuenti ed è per questo che credo sia giusto ora chiedere al settore finanziario di restituire qualcosa, di dare il loro contributo alla società. E se non c'è ancora un accordo a livello globale, da qualche parte bisognerà iniziare. E perché non qui in Europa? Circa la nascita di un'agenzia di rating europea, pensiamo che non sia appropriato, perché sorgerebbero conflitti di interesse che minerebbero la credibilità della stessa agenzia. Riguardo la componente tossica presente nel portafoglio delle banche, abbiamo proposto agli Stati membri un'azione comune per ricapitalizzare le banche e per liberarle dagli asset tossici che detengono. Così José Barroso, il presidente della Commissione Europea. Il professor De Aglio, però io non capisco una cosa. Barroso dice: abbiamo speso 500 miliardi di euro per salvare le banche in questi 2 anni, no? Speso, poi ce l'hanno ridati, non è che... Però insomma li abbiamo messi noi intanto, noi cittadini europei. Adesso sarebbe giusto anche che loro venissero chiamati a fare la loro parte. Ma lo dice nel momento in cui di nuovo circola in maniera molto forte l'ipotesi di ricapitalizzare le banche, alcune banche europee. Non capisco io, forse? Diciamo che Barroso cerca di tirare un pochino per la giacca i governi che vogliono salvare le banche e comunque ricordare loro che ci sono degli altri obblighi. Poi l'ha detto in questa maniera, naturalmente le banche attuali non hanno un centesimo da dare alla collettività, se lo sono mangiato tutto. E come se lo sono mangiato? Perché, voglio dire, abbiamo visto i bonus dei manager tornare ai livelli pre-crisi, poi scopriamo che Dexia però aveva in pancia ancora tutti i mutui subprime, tutti gli investimenti ad altissimo rischio, a leva finanziaria, non li aveva mai svalutati? Perché hanno ripreso a fare gli stessi giochi di prima. Mamma dopo essere stati salvati non hanno imparato nessuna lezione. Probabilmente non sanno fare nessun altro gioco. Ecco. Addirittura mi pare sia nelle notizie di oggi c'è il presidente di Bank of America che dice noi abbiamo l'obbligo dei nostri azionisti di fare il massimo profitto possibile, punto. E allora non hai capito niente, perché il tuo massimo profitto possibile è quello che ci ha condotto al baratro della crisi. Infatti io non mi scandalizzo poi troppo che le banche vengano salvate, perché sono poi ingrediente sociale essenziale, se no il sistema dei pagamenti collassa, eccetera. Però trovo veramente scandalizzante che dopo averle salvate si lasciano normalmente agli stessi posti di magari, visto che gli stati entrano, potrebbero restare dentro le banche con uno o due consiglieri e impedire di... Ma infatti, esattamente quello che non è successo e che oggi ha portato gli inglesi a fare perlomeno un passo ragionevole, che è quello di pensare a una riforma bancaria in cui le banche, da un punto di vista dei flussi finanziari, vengono radicalmente divise in due. Sì. Cioè, la banca normale e la banca per gli speculatori. È quello che si chiede anche al timido Barack Obama su questo e all'ambiguo Timothy Geithner, il suo ministro al tesoro, perché in America, dove tutto è nato, adesso hanno migliaia di indignados sui ponti, certo. Avessero fatto una riforma che separa la banca che fa speculazione, che quindi usa gli strumenti derivati, i CDS e quant'altro, dalla banca che raccoglie risparmi dei cittadini. Non ci sono ancora. Esisteva questa divisione fino al 96, e è da lì che nasce tutto. La riforma che hanno fatto è il porcellum delle riforme. Il porcellum finanziario, giusto. Decine di migliaia di pagine, ci devono installare una quarantina di commissioni e chissà quando funzionerà, cioè è una presa in giro. Ma bastava rimettere la vecchia legge del 96, quella per cui se tu fai banca d'affari speculativa non puoi fare retail e raccolta. Vedo un'agenzia, dell'ultima domanda che ho per lei, la neodirettrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, dice... Abbiamo risorse come Fondo Monetario Internazionale per aiutare anche l'Italia. Ma perché secondo lei tutti si affrettano a spiegare che sono pronti ad aiutarci? Probabilmente perché sentono sui mercati qualche flusso speculativo negativo, cioè qualche intenzione di vendere ancora titoli e allora un avvertimento una moral suasion, cioè un avvertimento morale. Attenzione che se voi pensate di fare un altro giochetto all'aumento dello spread, io vi brucio perché gioco in senso contrario con il Fondo Monetario, ancora uno degli enti che ha maggiore liquidità. Ha tantissima liquidità. C'è un avvertimento a chi volesse in questo momento iniziare ad attaccare di nuovo l'Italia, guardate che noi che andrete a scottarvi a bruciarvi le penne. Grazie, certo. A Mario De Aglio, economista e editorialista della Stampa di Torino. Traffico, poi la borsa e poi il ricordo nostro su Steve Jobs, ne parlano tutti di Steve Jobs. Noi vogliamo farvi ascoltare una cosa che riguarda molto l'economia e come si fa impresa, e cioè il famosissimo discorso ormai all'università di Stanford, in cui disse siate folli e non fatevi costruire il futuro da qualcun altro, che andrebbe letto ogni mattina nelle scuole italiane, visto che questo paese insomma ormai sembra incapace di qualunque formulazione autonoma. Traffico. Allora, la borsa oggi, che è la fotocopia della borsa di ieri, più 3,55% Milano, più 3,40% Parigi, più 3,15% Francoforte e più 3,5% Londra. L'America guadagna lo 0,90%. La fotocopia perché? Perché bene tutte le banche sulla possibilità di un intervento del Fondo Salva Stati nella capitalizzazione delle banche stesse. Abbiamo appena finito di parlarne con Mario De Aglio, e che ha citato lo stesso Trichet oggi nell'annunciare tassi invariati. E a questo proposito cito io invece Intesa San Paolo più 5,73%, Monte dei Paschi più 4,17%, Unicredito più 3,84%. Un po' più penalizzata oggi la Popolare di Milano, che guadagna solo lo 0,18%, e qui ci sono le liste per il rinnovo degli organi sociali. Sappiamo da tempo che è in discussione l'intera era Ponzellini, diciamo, con i nuovi ingressi e con i nuovi equilibri. La Popolare Emilia Romagna alla fine ce la fa a chiudere in rialzo, più 0,30%. Tra gli altri titoli, molto bene Prismian, più 7,40%, è l'ex Pirelli Cavi. Il rame sta recuperando molto i prezzi negli ultimi giorni dopo un calo brusco, ricorderete, ce ne siamo occupati anche noi. Tenaris più 8,16%, anche qui prezzo del greggio che risale, settore costruzioni. Ragionamento analogo per Buzzi Unicem, più 6,81%, e va in recupero a livello europeo anche oggi tutta l'auto, e non è un caso che anche da noi Fiat Auto recuperi il 3,60%, mentre sul fronte energetico, visto il recupero del petrolio, Enel più 2,5%, Eni più 2,5% anch'essa, Snamret e Gas più 3%, A2A più 2,75%, recupero anche nel settore telefonia, sull'idea che Wind, Telecom e Vodafone possano rafforzarsi. Infine, e chiudo, si sgonfia un po' l'effetto su Rizzoli Corriere della Sera, meno 5,94% oggi, Gas Plus meno 6,36%, due peggiori titoli, Classe Editori meno 5,40%, il migliore Retelit SPA, e poi Tiscali più 14,86%, RDB più 11,72%. L'aggiornamento di borsa l'ho fatto io oggi perché voglio un po' di spazio prima di parlare con Andrea Guerra per ricordare a modo nostro Steve Jobs, che è morto molto giovane, era nato nel 1955, e quindi a soli 56 anni, un cancro, un tumore al pancreas. Però un messaggio da dare a altri manager e da dare a chi vuole fare impresa, e soprattutto non c'è retorica, da dare ai giovani. Sì, era il febbraio del 1955, 24 febbraio, quando nasceva Paul Jobs, con una vita difficilissima, perché ha avuto una famiglia, insomma, disastrata a dir poco, e tant'è che ha iniziato nel 1974 la fabbrica di videogames, gli Atari, qualcuno se li ricorda? E i soldi che accumula li usa non per aprire qualcos'altro, ma per andare in India, erano anche gli anni, a fare quella che ha chiamato sostanzialmente il viaggio di ispirazione spirituale. E poi voglio citare tre date, anche perché i giornali sono e saranno pieni delle memorie di Steve Jobs. Gennaio, 24 gennaio 1984, viene presentato il Macintosh. È la rivoluzione, perché la tastiera è assieme allo schermo. So che sembra una cavolata detta così, ma 24 gennaio 1984. Un anno e mezzo dopo, Steve Jobs rompe, nonostante il successo della Apple, rompe, lascia tutto, perché ci sono anche tanti successi nella sua carriera. Crea una nuova azienda, la Next, che ha un po' di successi ma anche molti fallimenti, e poi riappare, perché richiamato, diciamo, in casa, e torna come amministratore delegato, e nell'88 lancia l'iMac, che fu un successo parziale. Altra data, ottobre 2001, l'iPod. 28 aprile 2003, iTunes. Agosto 2004, diagnosticato il cancro. Dicembre 2004, l'iPod raggiunge 10 milioni di pezzi. E poi ottobre 2005, l'iTunes vende 1 milione di video. Gennaio 2007, arriva l'iPhone. E allora vi faccio ascoltare che cosa disse in quel famoso discorso all'Università di Stanford, citando però una cosa su tutte. Jobs ha portato quella che è stata la crescita di Apple da 4 miliardi quando l'aveva trovata da 3 miliardi di capitalizzazione nel 96 a 347 miliardi nel 2011. La frase, il passaggio principale nel suo intervento all'Università di Stanford, quello sui giovani. A 17 anni lessi una citazione: se vivrai ogni giorno come se fosse l'ultimo, sicuramente un giorno avrai ragione. Mi colpì molto e da allora, negli ultimi 33 anni, mi sono guardato ogni mattina allo specchio chiedendomi: se oggi fosse l'ultimo giorno della mia vita, vorrei fare quello che sto per fare oggi? Ogni qualvolta la risposta era no, per troppi giorni di fila, capivo che c'era qualcosa che doveva essere cambiato. Ricordarmi che morirò presto è il più importante strumento che io abbia mai trovato per fare le grandi scelte della mia vita. Perché quasi tutto, tutte le attese dall'esterno, tutto l'orgoglio, tutte le paure di imbarazzi o fallimenti, svanisce di fronte all'idea della morte, lasciando solo quello che è realmente importante. Ricordarsi che dobbiamo morire è il modo migliore per non cadere nella trappola di pensare che abbiamo qualcosa da perdere. Siete già nudi. Non c'è ragione per non seguire il vostro cuore. Nessuno vuole morire. Anche le persone che vogliono andare in paradiso non vogliono morire per andarci. Eppure la morte è la meta che tutti abbiamo in comune. Nessuno gli è mai sfuggito. E così deve essere, perché molto probabilmente la morte è la più grande invenzione della vita. È l'agente di cambiamento della vita. Spazza via il vecchio per far posto al nuovo. Ora, il nuovo siete voi, ma un giorno non troppo lontano diventerete gradualmente il vecchio e sarete spazzati via. Mi dispiace essere così drammatico, ma è la pura verità. Il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro. Non fatevi intrappolare dai dogmi, seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui offuschi la vostra voce interiore. E, cosa più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e le vostre intuizioni. In qualche modo, loro sanno che cosa volete veramente. Tutto il resto è secondario. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo con Andrea Guerra e quindi continua il nostro viaggio tra le imprese, i manager, gli imprenditori che riescono a crescere nonostante la crisi e nonostante la situazione politica italiana e gli attacchi all'Italia. Un paio di risposte però a chi ha scritto al 349-238-6666 su Steve Jobs. Alcuni dicono: ma molta retorica, molto... attenzione, perché insomma, non mi sembra che sia un periodo in cui vi siano tanti modelli da seguire in giro. Nessuno sta esaltando Steve Jobs. Quel discorso, secondo me, non è, come scrive qualcuno, la più vecchia retorica. Scusatemi, è un discorso importante in cui c'è questa frase che vi faccio risentire in inglese, che è un invito ai giovani, detto da uno che si chiama Steve Jobs, secondo me si può anche ascoltare, che è: restate, siate pazzi e non fatevi guidare dagli altri. Sentiamo questa parte. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Stay hungry and stay foolish vuol dire siate affamati e siate anche pazzi. E allora, secondo me, un po' di fame e un po' di pazzia non guastano. Noi invece andiamo avanti con il nostro viaggio nei gruppi italiani più internazionali che conquistano quote di mercato e che fanno di necessità virtù, e quindi se l'Europa è un continente in cui si cresce poco, vanno all'estero. E oggi un gruppo, appunto, che è leader mondiale nel suo settore, che ha una fortissima presenza all'estero e anche un rapporto abbastanza particolare con i dipendenti. Il gruppo si chiama Luxottica ed è praticamente uno dei marchi più prestigiosi di questo paese nel settore del lusso. Ha festeggiato da poco 50 anni. La creatura di Leonardo Del Vecchio era nata con 40 operai, adesso sono qualcuno in più, 62.000 dipendenti. Gli stabilimenti sono in Italia, in Cina, in India, negli Stati Uniti, 7.000 negozi in 130 paesi per un totale di quasi 6 miliardi di euro di fatturato l'anno scorso, 5 miliardi e 8 per la precisione. E anche Luxottica, come nelle settimane passate Pirelli e altri gruppi, sono gruppi che hanno la sede, la testa e il cuore in Italia, ma ormai i fatturati li fanno da un'altra parte. L'Italia, pensate, pesa solo per il 4% per le vendite, il 60% della produzione è fatto in Italia, ma il 60% del fatturato viene fatto negli Stati Uniti. Da marchi come Oakley, Ray-Ban, Vogue, Persol e poi tutti i marchi in licenza, Luxottica per chi non l'avesse ancora capito, fa occhiali, Bulgari, Chanel, Dolce Gabbana, Gabbana, Donna Karan, Prada e Versace. Bene anche i primi sei mesi dell'anno, i ricavi più 7% quasi, a 3 miliardi e 200 milioni di euro. L'amministratore delegato, oltre che essere appunto a capo di una vera multinazionale, è anche molto giovane. Questo è in questo paese, e solo in questo paese, fa notizia. Andrea Guerra, buonasera. Buonasera. Quanti anni ha lei? 46, morirò giovane io, perché ormai sarò giovane in eterno. Già il programma ha preso una piega poco ottimista in questi mesi, se ci si mette anche lei siamo finiti. No, complimenti, perché lei prima era alla Merloni, poi sempre giovanissimo. Da quanti anni è che è in Luxottica? 7 anni, quindi è arrivato a 40 anni. Sì. A fare il numero 39. A fare il numero uno di un gruppo che appunto ha 62.000 dipendenti e, come ricordavo, quasi 6 miliardi di euro di fatturato. Prima domanda riguarda, come sempre in queste interviste, il gruppo, come sta andando la seconda parte del 2011, Italia ma soprattutto estero. Da dove arriva la domanda più interessante, dove arrivano le frenate? Ad oggi stiamo andando bene, devo dire, in tutto il mondo, ovviamente con ritmi diversi, ma è giusto che ci siano ritmi diversi, per cui stiamo andando molto più veloci nei paesi emergenti, stiamo continuando la nostra solida crescita negli Stati Uniti, l'Europa va avanti a macchia di leopardo, ma complessivamente tutta positiva, una bellissima estate, lunga, lo vediamo ancora col sole che stiamo avendo in questi giorni, per cui ad oggi bene. Dico ad oggi perché comunque è evidente che stiamo andando verso un periodo di maggiore instabilità, non dico decelerazione, ma sicuramente andremo verso un periodo di maggiore instabilità. Anche voi, come altri gruppi italiani molto esposti per fortuna verso l'export, notate dei numeri diversi, una velocità obiettivamente inarrivabile dai BRICS, soprattutto Cina, India e Sud America e Brasile? Sicuramente sono questi paesi e poi ce ne sono altri, perché anche poi la Corea, la Turchia, il Messico sono tutti grandi paesi che stanno crescendo, e ne abbiamo altri ai confini che cominciano ad essere rilevanti, l'Indonesia, qualche nazione dell'ex Unione Sovietica, eccetera. Però ripeto, l'Europa non va male, è un mondo di grandi opportunità questo. Grandi opportunità che significano anche più instabilità e più responsabilità, ma anche in Europa e anche in Italia noi siamo cresciuti del 7-8% mi sembra in Italia fino ad oggi. Questo per quello che riguarda le dinamiche mondiali. Voi state adottando strategie diverse a seconda dei paesi, oppure essendo già su una fascia, diciamo, medio-alta di prodotto e di occhiali in questo caso, tutto sommato, diciamo, la fascia medio-alta è abbastanza omogenea nonostante l'area geografica? No, devo dire che noi stiamo, ma un po' da un po' di tempo, cercando veramente di radicarci in questi nuovi giganteschi paesi che a volte vengono descritti come il paradiso, a volte vengono descritti come l'inferno. Sono paesi molto grandi, con tassi di crescita naturalmente molto alti, e ognuno di loro ha le proprie difficoltà, le culture, la necessità di adattare i modelli di business, e per cui credo che veramente il grande sforzo nostro continuo e continuativo nel lungo periodo è di essere lì domestici. Veramente dobbiamo sentirci ogni giorno di più in questi paesi come a casa nostra. Allora, guardi, dottor Guerra, adesso c'è il traffico, poi vorrei capire anche che cosa porta una politica di estrema attenzione che avete nei confronti dei dipendenti e un giudizio anche sull'Italia, quando lei va all'estero, che immagine riceve dal nostro paese. 349-238-6666 per i vostri sms. 18:18 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Andrea Guerra, numero uno di Luxottica, giovanissimo quando è arrivato, 39 anni, l'abbiamo detto, adesso ne ha 47. Senta, voi in Luxottica avete delle iniziative a favore dei dipendenti che vanno per i 50 anni, avete regalato azioni pari a 7 milioni di euro che non potranno vendere prima di 3 anni però. E poi anche in momenti di crisi avete attuato politiche di welfare integrativo per gli 8.000 lavoratori, per cui il pacco spesa lavoro di 110 euro in genere alimentari, e poi la cassa sanitaria per gli impiegati che copre le spese odontoiatriche, le visite, e con un risparmio stimato in 300 euro a famiglia e fino a 5.000 euro poi copre gli interventi ospedalieri, la maternità, insomma, è previsto un contributo di 350 euro, e i fondi per l'acquisto di libri scolastici, borse di studio, asili nido. Insomma, balza un po' agli occhi un diverso atteggiamento tra voi, mi passi la battuta, e la Fiat quanto al rapporto con i dipendenti. Vedi, penso che siamo in mondi competitivi diversi, una storia imprenditoriale diversa e probabilmente poi alla fine equazioni diverse, sperando che poi tutte le equazioni portino a un grande risultato positivo. Però adesso, detto tra di noi, tanto non ci sente nessuno, ma lei non ritiene che ci sia in Italia forse poca attenzione? Noi nel mondo anglosassone vediamo una grossa attenzione, anche nel mondo asiatico, per quello che è il rapporto con il dipendente e anche le forme di incentivazione. Insomma, gli asili nido, per essere proprio banali, in questo paese sono una rarità. Io le dico questo, se lei guarda le grandi, belle, fantastiche aziende italiane, hanno tutte delle storie simili, dei comportamenti simili. Hanno avuto degli imprenditori illuminati, hanno lavorato sui marchi, hanno sempre pensato al mondo come il loro momento di concorrenza, si sono aperti ai mercati finanziari, hanno diviso le responsabilità tra come dire, la proprietà e il management, sono tutte simili, e per cui quando andiamo a vedere anche la relazione con i dipendenti di nuovo trova grandi similarità. Il punto vero è che purtroppo siamo ancora oggi dominati da tante aziende o che sono piccolissime per cui non si possono permettere niente, oppure che sono all'ombra dello Stato e per cui alla fine non c'è quello stimolo a fare un metro in più. Ma voi, perché ce lo chiedono anche gli ascoltatori, avete verificato, al di là dell'iniziativa e della bontà in sé, ma avete anche registrato un effetto positivo in chi lavora per voi? Cioè, la logica per cui se... Ci sono degli indicatori che sono chiari, ci sono degli indicatori di qualità, ci sono degli indicatori sulla presenza e sull'assenteismo, ci sono tanti indicatori che veramente ci dicono che questa è la strada giusta da percorrere. No, questo è interessante, perché secondo me lei è un po' troppo ottimista, ma questo meno male, perché lei fa il manager, io no. Io penso che in Italia anche imprese forti, illuminate, spesso sottovalutano il ruolo che possono avere queste iniziative, che non sono beneficenza nei confronti dei dipendenti, parliamoci chiaro, hanno anche un ritorno sulla produttività, la tanto evocata produttività, non di poco conto. Quello che lei ha chiamato welfare integrativo, cui tutta questa parte di scuola, sanità e alimentare, è tutta legata a degli indicatori di qualità. Quindi non stiamo né parlando di produttività né di efficienza, niente, ma degli indicatori di qualità. Quindi scattano solo e soltanto nel momento in cui Luxottica raggiunge determinati indicatori di qualità. Quindi non c'è, come dire, il buon padre di famiglia, Leonardo del Vecchio che è buono, c'è una relazione forte, precisa e di lungo periodo con i nostri collaboratori. Diciamo, non è beneficenza, è un investimento? È un grandissimo investimento ed è un grandissimo grazie. Beh, questo non è male. Allora, una cosa che mi chiedono gli ascoltatori riguarda la vostra presenza in Cina, perché l'ultima volta che ci incontrammo fu proprio in Cina, a Shanghai, se non ricordo male. dove voi annunciavate l'apertura di altri 130 punti vendita. Fanno 260 in tutto, però mi corregga, perché probabilmente le mie cifre sono... È tutto giusto e stiamo andando nella direzione giusta una buona dose di entusiasmo. Ecco, per far capire anche chi ascolta cos'è la Cina, 300 punti vendita sì. Vi permettono di coprire giusto i centri principali? Perché sembrano tantissimi in Italia. No, è una goccia nell'oceano. È un grande buon inizio, e se uno ci pensa che per arrivare a questo numero ci abbiamo messo 3-4 anni, significa che l'inizio è stato duro, abbiamo fatto qualche errore, ci siamo fatti esperienza, abbiamo aperto, abbiamo provato modelli di business diversi, l'abbiamo trovato e oggi possiamo andare ad aprire un centinaio di negozi ogni anno ormai. In Cina? Certo. Che sono sempre una goccia nell'oceano, cioè, nel senso che riesci a presidiare le città principali. Ecco. Non c'è nessun ufficio di statistiche in Cina, ma secondo me noi non abbiamo, forse abbiamo l'1% del mercato con queste. Con 300 negozi. Assolutamente. Quindi fate le debite proporzioni, con 3.000 arrivereste al 10%, con 30.000 fareste il 100%. Vede, io faccio sempre questa proporzione, questa equazione che è molto rapida, sono 1.200.000 persone. E più o meno ci sono una ventina di grandi centri, quindi uno divide 1 miliardo per 20, stiamo parlando di circa 60 milioni di persone in ognuno di questi grandi centri. E se lei va a pensare che in ognuno di questi grandi centri forse abbiamo due negozi, un negozio, stiamo parlando di due negozi in un equivalente Italia. Sì, esatto. Perché la Cina è un continente, cioè stiamo parlando veramente di una regione gigantesca, sì, cui anche gli stili, le culture sono molto diverse. No, ma il paragone è molto chiaro, 300 negozi significa la stessa capacità di penetrazione di avere due negozi in un paese come l'Italia. Esatto. E questo la dice lunga, la fa capire molto meglio di tante statistiche. Restiamo sull'Italia, però lei appunto rappresenta Luxottica, rappresenta il lusso italiano, la capacità anche artigianale di coniugare, lo dico senza retorica, lusso con tecnologia, perché poi le montature per occhiali sono un aspetto sia artigianale sia di investimento tecnologico, e gira il mondo perché avete appunto 7.000 negozi. Quanto è peggiorata l'immagine del nostro paese negli ultimi mesi? È un po' peggiorata, non c'è dubbio, cioè... La cosa più fastidiosa è le continue, come dire, battute, quello è la parte fastidiosa, sì. Ma lei quando è all'estero e chiaramente si rende conto di tutte le potenzialità e anche i meriti dell'Italia, cos'è che le fa più rabbia? Mi fa più rabbia il trovare in continuazione alibi e non avere un grande senso di urgenza. Però visto che ha 47 anni, lei, insomma, 20 anni fa, 25 anni fa, quando ha iniziato, se ne immaginava che saremmo andati indietro? Probabilmente no, cioè uno sicuramente si immagina che in un mondo contemporaneo ci siano dei paesi che per definizione diventeranno più grandi dell'Italia, ma questo non significa che noi dobbiamo diventare un piccolo paese. Noi possiamo comunque rimanere a essere un grande paese, e questo è un grande peccato che non, in questo periodo proprio non ci siamo. Grazie, in bocca al lupo a lei, ma soprattutto ai 7.000 dipendenti della Luxottica, molti dei quali sono anche in Italia, lo dico perché ci sono dipendenti chiaramente all'estero, ma ha anche dipendenti a Belluno, Treviso, Trento e Torino, dove ha gli impianti produttivi. Grazie Andrea Guerra, amministratore delegato della Luxottica. Noi siamo veramente in conclusione del programma, vi ricordo solo quello che ha fatto in questo momento, sta facendo Wall Street più 0,98%, l'1% quindi di rialzo quasi negli Stati Uniti. Focus Economia torna domani. Per ora da Sebastiano Barigione le auguro di una buona serata, domani dalle 17 in poi con un'altra puntata. Radio 24, la passione si sente.